sadiamo, mona mi mona sadia, oh mi mona sadiamo, sadia mi mona sadia, oh mi mona sadiamo, sadia mi mona sadia, zine la mama ya sidi, tarafa ya sidi, mi mona sadiamo, mi mona mi mona sadia. Sadiamo,